Ecco, allora Ottavia Nicoli ci parlerà, del resto il titolo in qualche modo ci fa intravedere davvero una relazione conclusiva per certi versi di problematiche del convegno, oltre la religione popolare. Sì, naturalmente si tratta di un tema, quello della religione popolare, di ampiezza grandissima e assolutamente non volendo fare una rassegna mi limiterò a qualche considerazione. Ecco, sappiamo che la terminologia appunto della religione popolare è stata infatti molto discussa, anzi tanto discussa da essere stata sostanzialmente messa fra parentesi o almeno tra virgolette, sin dalla fine degli anni 70 e ricordo in particolare a questo proposito l'introduzione di Carlo Ginzburg al numero di quaderni proprio in opposizione all'espressione religione popolare, considerata, una delle più ambigue e oscure del lessico storiografico internazionale e quindi inutilizzabile e da rigettare. Il plurale religioni era evidentemente brachilogico e stava per forme della vita religiosa, ma il suo uso non si riduceva ad una motivazione pratica, volendo piuttosto sottolineare in forma radicale e provocatoria la grande pluralità storica di variabili di questa dimensione del sentire e dell'agire umano tra Medioevo ed età moderna. Per usare le parole stesse di Ginzburg, si trattava di far emergere, cito, la fisionomia quanto mai varia dei rapporti che nella società dell'Europa preindustriale coinvolgevano sul terreno religioso classi egemoni e classi subalterne. Il risultato di questi rapporti non è mai scontato. Si ha storicamente una gamma ricchissima di possibilità, comprese tra la culturazione sostanzialmente riuscita a un estremo e la contrapposizione ostinata e consapevole all'altro. Il plurale della prima parola del titolo vuole sottolineare proprio questa varietà irriducibile ad una definizione dei comportamenti e degli atteggiamenti religiosi. La contrapposizione tra classi egemoni e classi subalterne fa parte di un linguaggio gramsciano che oggi non si usa più, ma in effetti Ginzburg rifiutava una contrapposizione monolitica in questo senso e, come abbiamo sentito, parlava piuttosto di fisionomia quanto mai varia di rapporti, di varietà irriducibile di comportamenti e atteggiamenti religiosi. Vorrei anche ricordare che l'espressione religione popolare è in qualche modo inscindibile da quella parallela di cultura popolare ed entrambe sono collegate da una premessa sottintesa e non priva di equivoci, cioè dall'idea che esista una specificità e unità religiosa, culturale compatta delle classi subalterne. E noi sappiamo invece, ce l'ha dimostrato fra gli altri Jean-Claude Schmitt, che neppure il folklore è specifico di una sola classe sociale. Alternativamente, il termine popolo è stato usato, per esempio, in un contributo recente di Wolfgang Brückner, nel significato di popolo di fedeli, comprendente tutti i laici, ma può inoltre, a mio parere, acquistare una maggior concretezza e essere utilizzato anche più agevolmente, facendo riferimento a una precisa categoria sociale. E quindi, e cioè il popolo cittadino, non quindi un popolo vago e indifferenziato, ma quel tessuto sociale complesso che sostanziava di sé la realtà urbana italiana agli inizi dell'età moderna e al quale si fa almeno in parte riferimento, ma qui il terreno diventa davvero troppo ampio per essere battuto anche solo per accenni, anche quando si parla di religione civica o ancora di rituale civico. Entrando dunque nei rapporti fra governo della città e religione della città e cercando altresì di dare di questi rapporti una lettura antropologica. Dunque, fatte queste premesse, prese queste precauzioni, torniamo ad affrontare il problema che la terminologia dalla quale siamo partiti, anche se la possiamo e dobbiamo superare, comunque sottende. Che è quello al quale già accennava Ginzburg, ma che forse possiamo qui meglio esplicitare della differenziazione delle forme della vita religiosa all'interno di un territorio e di un periodo storico, differenziazione sociale ma anche per sesso, per livello culturale, gruppo di età e altro. È una molteplicità di variabili, se vogliamo ovvie, che si intrecciano a quelle derivanti dal contesto geografico e politico e che permettono di intuire, semplificando al massimo, una grande varietà di possibili approcci al rapporto con il soprannaturale. C'è una favola molto bella in uno dei quattro libri di lettura di Leone Tolstoi, che del resto sottintende un punto di vista ben presente anche nelle opere maggiori dello scrittore russo. Mosè, vagando nel deserto, incontra un pastore nomade e ascolta la sua preghiera. Il pastore si rivolge a Dio e si dichiara suo servo. Vorrebbe lavare i suoi piedi, rassettare i suoi abiti, offrirgli il latte del suo armento. Mosè si indigna e accusa il pastore di impietà. Dio non ha corpo, il rapporto con lui non può essere che spirituale. Ma Dio stesso fa udire la sua voce e rimprovera Mosè, ricordandogli che, cito, ciascuno pensa a Dio conformemente alla propria umanità, ciò che sarebbe male per te è bene per un altro. Passando dal piano della favola a quello della riflessione storiografica, ciò che intendo dire con questo racconto è che, volendo andare oltre la religione popolare, come certo si deve andare, perché un'astratta religione popolare in quanto tale non è mai esistita, non dobbiamo però sottrarci al problema della molteplicità dei livelli e delle tipologie della vita religiosa. All'interno dell'ortodossia, o ai margini di essa, c'è stato certamente spazio per tensioni, differenze di posizioni, varietà di scelte e di orientamenti. Anzi, tale problema rimane centrale e sfuggirlo o negarlo finisce con ridurre notevolmente la nostra comprensione del dato storico-religioso. Vorrei esemplificare questo rischio parlando di un grosso volume uscito di recente di uno studioso inglese vicino a John Bossi, Eamon Duffy. Il titolo, vi risparmio la mia pronuncia inglese, ve lo do tradotto, è La spoliazione degli altari, religione tradizionale in Inghilterra 1400-1580. Duffy si è proposto uno scopo molto ambizioso, che è quello di fornire un quadro organico e complessivo della vita religiosa in Inghilterra prima di Enrico VIII e della Riforma, mostrando come si trattasse di una realtà profondamente unitaria, non variegata secondo la posizione laica o clericale dei credenti o secondo il loro livello sociale e culturale, e come questa preziosa e vitale costruzione culturale sia stata distrutta da Enrico e da Edoardo in forma parziale e in modo definitivo da Elisabetta dopo una breve resurrezione sotto Maria. Proprio in quanto la realtà della religione inglese tardo-medievale per Duffy del tutto compatta, egli ricusa il termine di religione popolare che, seguendo in ciò John Bossi, sostituisce fin dal titolo con quello di religione tradizionale. Tale costruzione compatta, a parere di Duffy, veniva trasmessa ai fedeli senza resistenze o filtri determinati da strati culturali preesistenti o alternativi. Quindi egli nega che si possa parlare di tradizioni magiche precristiane, per esempio, o comunque differenziati socialmente. I tramiti principali di questa trasmissione erano tali da poter essere recepiti da tutti indistintamente i fedeli, quale che fosse il loro livello sociale e culturale. Innanzitutto il ciclo del calendario liturgico, poi la confessione, le prediche, le immagini, la messa, altri riti collettivi come quelli processionali, il culto dei santi, i libri d'ore, la preparazione alla morte. Questo elenco, reso necessariamente così sommario da parte mia, può risultare abbastanza ovvio, ma la grande estensione della ricerca e la magnifica empiria anglosassone dello studioso, messa in opera nell'individuazione dell'esemplificazione e delle fonti, rendono ricchissima e molto viva e concreta questa parte del lavoro, che si estende per quasi 400 pagine e che, al di là delle critiche che mi accingo a fare, è di grande fascino e utilità. E sulla seconda parte, che è quella che più corrisponde al titolo, non mi trattengo. Dirò subito però che non ritengo l'assunto di Duffy sia interamente convincente, e di ciò è possibile rendersi conto anche attraverso un esame degli snodi principali della sua argomentazione. Di fronte alla descrizione di culti e pratiche ben note anche agli studiosi italiani, in particolare a quelli che si sono imbattuti in processi per magia, come preghiere specifiche per singoli morbi, con invocazioni, per esempio, ai nomi dei magi e degli apostoli da scriversi su ostia e ingoiarsi, egli ribadisce che si trattava di culti e pratiche condivise anche da nobili, e questo è certamente vero, e non magiche, e questo è meno vero, ma frutto dell'estensione di pratiche liturgiche, virgolette, costruite sulla struttura stessa della liturgia. Questo non è paganesimo, ma cristianità laica. Affermazione questa che avrebbe incontrato la fiera opposizione di San Bernardino, che proprio a proposito di questo tipo di pratiche diceva che per questo peccato Dio manda spesso fragelli alle città e che nei paesi che hanno conosciuto la Controriforma sarebbe apparsa universalmente contestabile già verso il 1560. E del resto lo stesso Concilio di Trento, nella sessione del 17 settembre 1562, vietava ai sacerdoti, cito traducendo, per non dar spazio alla superstizione, di impiegare nella celebrazione della messa riti, cerimonie o preghiere diverse da quelle approvate dalla Chiesa e recepite da un lodevole e frequente uso. Divieto necessario, in quanto in effetti gli stessi processi inquisitoriali per magia ci portano in primo piano numerosi casi di sacerdoti, ovvero strioni, per riprendere il titolo di un saggio di Mary O'Neill basato su processi modenesi, bolognesi e veneziani, sacerdoti che portano con sé durante la messa noci, calamite, brevi e altri oggetti, allo scopo di caricarli del potere sacro derivante dalla celebrazione eucaristica. E quando l'Inquisizione comincia a occuparsi di siffatte pratiche, c'è chi pensa che ciò equivalga a dirizzare il becco alle civette, come diceva una giovane donna fiorentina, cioè tormentare con inutile pertinacia chi non fa nulla d'insolito. Ancora, è singolare, passando a un altro punto del libro di Daffi, che qui vengano presentati come facenti parte di una prassi indiscussa certe forme di devozione all'ostia consacrata che sono certamente praticate in tutta Europa, ma con il continuo biasimo dei predicatori e moralisti, dall'agostiniano italiano Gerolamo da Siena ai ben più noti Jean Gerson e Vincenzo Ferrer. Essi ci hanno ripetutamente descritto con esasperata deplorazione folle di fedeli che al suono del campanello che annuncia l'elevazione si precipitano dal portico all'interno della chiesa, come un branco di maiali in uno stabbio, come diceva Vincenzo Ferrer. Oppure si alzano dalla loro panca per correre là dove l'ostia viene innalzata o sgomitano per guardare da certi buchi praticati all'uopo e così via. Tutto questo per la credenza che vedere l'ostia consacrata preservi da mille mali, sia giovevole per le madri in travaglio e apporti una buona digestione dopo un pasto abbondante. Altre pratiche risultano, credo, nuove al lettore italiano, ma rivelano ugualmente disomogeneità culturali che appaiono rivelatrici. Per fare solo un esempio, Daffi sottolinea che nella processione tenuta il giorno della Domenica delle Palme, il prete, entrando in chiesa alla testa della processione, urtava la porta col piede, gesto proibito ma praticato. Qui la disomogeneità non è tra clero e laici, bensì tra episcopato e comunità, una comunità alla cui cultura anche il parroco risulta fortemente legato. E questo è un dato su cui torneremo proprio in quanto emerge anche dalle visite pastorali, oltre che da altre fonti. Rimane comunque la constatazione di dislivelli di cultura e di fruizione della vita religiosa all'interno di una stessa diocesi in un dato arco di tempo. Una constatazione alla quale il libro stesso di Daffi, pur così puntiglioso nell'affermare la compattezza della religione tradizionale, porta insomma ulteriore documentazione e che in realtà dovremmo dare per accertata in Inghilterra come nel resto d'Europa. A questo punto il problema che ci troviamo ad affrontare mi pare dunque che potrebbe essere formulato secondo la seguente domanda. Quale evidenza apportano alla verifica di queste disomogeneità e molteplicità di livelli le visite pastorali? In che misura esse ci consentono di verificarne e qualificarne l'esistenza? La prima immediata risposta è in qualche modo interna all'essenza stessa della fonte. E come è stato detto e ridetto, anzi anche in questa sede, essa, in particolare per quanto concerne il XV e XVI secolo, che è il periodo preso in considerazione per queste osservazioni, ci consente di cogliere non tanto la quotidianità della vita dei fedeli, quanto lo sguardo del Vescovo, il suo sforzo conoscitivo e coercitivo sulla realtà che egli si trova a governare e di cui tanto spesso la fonte ci rivela la renitenza ad essere disciplinata. Ma proprio in quanto il Vescovo si distingue ed è altro e separato dalla realtà che egli governa, la visita è un'esplicita dichiarazione dell'esistenza di due mondi separati, uno dei quali vuole conoscere l'altro e assimilarlo a sé. Dunque, da una parte stanno i Vescovi, dall'altra le strutture fisiche e istituzionali in cui il sacro viene amministrato, chiese, cappelle, confraternite, e coloro che popolano tali strutture, cioè il basso clero e i laici. In realtà, anche questo è un dato già rilevato ed emerso anche in questi giorni, questi ultimi appaiono quasi sempre nelle visite una realtà sbiadita. Di essi spesso veniamo a sapere, e talora con formule ripetute in maniera stereotipa dai notai, soltanto se ricevono o meno la comunione pasquale, se bestemmiano, se contraggono matrimonio secondo il decreto del concilio, e si noti che talora una risposta positiva a quest'ultima domanda contrasta con quanto apprendiamo da altre fonti. E come pure, per esempio, talora veniamo a conoscere da altre fonti pratiche singolarmente radicate e molto particolari che non sono assolutamente segnalate nelle visite pastorali. Comunque qualche brandello di conoscenza emerge certo da alcune visite. Da quella del Madruzzo a Trento veniamo a sapere per esempio che gli uomini durante la messa manent foris super cemeterio, preferiscono stare a chiacchierare nel cimitero, salvo si suppone entrare in chiesa al momento dell'elevazione, ma la visita non lo dice. E da quella del 1594 in Val di Fas, nella diocesi di Bressanone, apprendiamo che i bambini morti senza battesimo vengono sepolti in casa. Ma si tratta di frammenti occasionali, anche se non disprezzabili, e certo non utilizzabili da soli. Probabilmente informazioni più ricche e precise venivano allegate in forma riservata, ma di fatto esse non ci sono rimaste, oppure sono state scorporate e conservate a parte e quindi rimangono non facilmente raggiungibili. Tanto più concreta ci appare in rapporto l'immagine che le visite ci trasmettono dell'assetto degli edifici sacri e del loro arredo, talora, come sappiamo, descritto con estrema minuzia, e molti dei presenti si ricorderanno quel vas sine fundo diligentemente annotato nella visita ferrarese di metà 400 di Francesco dal Legname, che già attirò anni fa l'attenzione di Angelo Turchini. Ma comunque chiunque abbia avuto occasione di frequentare anche sommariamente queste fonti, quindi praticamente tutti i presenti, ha ben presente il quadro vivissimo che esse ci offrono del patrimonio edilizio e dell'arredo ecclesiastico agli inizi dell'età moderna. E accanto alle chiese ci appaiono vivi davanti agli occhi i preti che le officiano o dovrebbero officiarle. È un quadro rilevante anche perché da esso, come sappiamo, il mondo clericale ci appare tutt'altro che compatto, nel senso che uno degli sforzi maggiori che i vescovi devono compiere, lo ricordava anche Cecilia Nubola stamattina, è quello di separare in maniera definitiva e inequivocabile ciò che spesso non è il mondo dei chierici dal mondo dei laici. A Trento, in Lombardia e nel Mantovano sono continue le lagnanze del visitatore perché il prete che viene esaminato facit ut vulgari terdicitur molto il domestico et compagnono cum li laici, mentre si ripetono senza tregua le raccomandazioni al sacerdote ut clericaliter vivere velit. A questo scopo egli deve, sono tutte citazioni, tenersi lontano dall'eccessiva familiarità con i laici, deve evitare il passeggiar per la piazza indifferentemente con ogni sorte d'omini e la troppa dimestichezza con i secolari, si astenga dall'eccessiva familiarità con i laici evitando in particolare il gioco delle carte, soprattutto dei dadi. dove si ha l'impressione che prima ancora di certi comportamenti riprovevoli che ne derivano e che sono tutti attestati, come il gioco, l'ubriachezza, il ballare mascherati per via, sia proprio la consuetudine fra clero e popolo ad essere tenacemente combattuta, perché sintomo di un'omogeneità alla quale si vuole sostituire una differenziazione radicale. Tanto che a Ghedi e Pralboino nel Bresciano, alcuni testimoni, volendosi esprimere positivamente sui preti della zona, dichiarano che loro conversano fra loro, loro praticano fra loro e non con i laici. Al contrario, le complicità e i legami, anzi i meccanismi di omertà, per usare le parole di Danilo Baratti, tra basso clero e laici, appaiono talvolta rivelati dalla mancata denuncia delle manchevolezze degli uni o degli altri da parte rispettivamente di fedeli e dei parroci. In realtà, ed è emerso anche da diverse delle relazioni di ieri, in particolare da quella di Bizzocchi, appare chiaro che uno degli scopi delle visite era proprio quello di rafforzare, anzi di stabilire, se ci fosse stato bisogno, la distinzione radicale fra chierici e laici. La costruzione della specificità del mondo clericale appare necessaria non tanto e non soltanto per quel mondo, ma, come scriveva Adriano Prosperi nel saggio su Borromeo, citato anche da Bizzocchi, soprattutto per i laici, come i cani sono necessari al gregge perché non si disperda. Se non c'è distinzione, non c'è capacità di contenimento. Ma questo elemento è bifronte, nel senso che esso rappresenta indubbiamente un'articolazione della progettualità ecclesiastica, ma lo possiamo e lo dobbiamo valutare anche come la constatazione di una realtà negativa che si vuole rovesciare e che vede il clero visitato avere in comune con i laici le vesti, le armi, le donne, i divertimenti e anche le pratiche magiche e le superstizioni. Ciò che intendo dire è che se il problema che vogliamo porci è quello dei differenti livelli della vita religiosa in un dato periodo, in un dato territorio, mi sembra che le fonti visitali ci consentano certamente di cogliere tali livelli diversi, ma non tanto fra chierici e laici quanto fra alto e basso clero. Direi infatti che in esse, cioè nelle visite, sono descritte con maggiore frequenza pratiche giudicate non ortodosse operate dal clero, non dal popolo. A Mori, durante la diocesi di Trento, durante la visita del 1580, emerge che il cappellano va dicendo «Quod si posset abere tres capillos alicuius puelle, esse in facultate sua, e posse illam traere ad omnem suam voluntatem et desiderium». Tenete presente. Quanto poi alle visite quattrocentesche di Francesco del Legname, pullulano di preti che fanno brevi per i vermi o per le febbri, con buone parole, dice uno di essi, convinto apparentemente di fare solo il bene del suo gregge. Già da 20 anni, riferisce un altro, che non ha mai creduto di informare di tale suo comportamento i precedenti visitatori. C'è anche un paio di donne alle quali si fa sommariamente cenno che facunt incantaciones, ma non veniamo a sapere di che si tratta né a che scopo tali incanti siano diretti. Insomma, se vogliamo avere notizie sulle pratiche del popolo, dobbiamo accostare altre fonti a quelle visitali, che è certamente un criterio sempre opportuno. E vorrei citare a questo proposito un paio di battute di Burckhardt nelle quali mi sono imbattuta proprio mentre preparavo queste note. Ammonisce dunque Burckhardt che vi è il pericolo di fossilizzarsi se ci si occupa troppo a lungo di cose omogenee e ricorda il caso di quello sfortunato studioso che si prese, citazione, una paralisi cerebrale a causa delle prediche scozzesi del XVII e XVIII secolo di cui evidentemente aveva fatto indigestione. È anche vero, continua lo storico svizzero, che riprendo a citare, per chi voglia realmente imparare, un'unica fonte felicemente scelta può in una certa misura sostituirne innumerevoli. Basterà aggiungere una seconda fonte comparando ciò che è simile con ciò che è contrastante. Dunque, la domanda mi sembra dunque quali siano queste seconde fonti, quali seconde fonti è possibile utilizzare accanto alle visite per cogliere meglio il problema della pluralità dei livelli e delle forme della vita religiosa. Tali fonti sono naturalmente numerose e in realtà la soluzione migliore è l'uso di un numero elevato di materiali differenziati, fra i quali possono certamente essere utili anche le visite pastorali. Del resto mi sembra che questo sia venuto fuori più volte e Turchini ricordava che si tratta di un'avvertenza che è emersa fin dall'inizio dello studio delle visite pastorali. E vorrei citare come un esempio positivo in questo senso il libro di David Geltilcore, anche qui vi traduco il titolo, Dal Vescovo alla Strega, il sistema del sacro nella terra d'Otranto della prima età moderna, che usa processi, visite pastorali, sinodi, processi di beatificazione ed altro ancora, riuscendo in tal modo a mettere in evidenza la molteplicità di livelli della vita religiosa dal vescovo alla strega, per usare le parole del titolo, e in particolare specificando i diversi possibili mediatori all'interno di un sistema del sacro che privilegiava soprattutto le risposte rituali alla malattia e alle difficoltà della vita quotidiana. E fra le tante, tre sono le categorie di fonti che vorrei menzionare qui, adesso vedo se riesco a fare in tempo, in caso vi parlo solo della prima. Comunque si tratta naturalmente di una scelta soggettiva. Innanzitutto vorrei ricordare le fonti gesuite, in particolare quelle raccolte nei Monumenta Societatis Jesu, le Littere Quadrimestre, le Epistole Semecte. Naturalmente si tratta di materiali la cui potenzialità in quest'ambito è notissima. In un convegno tenutosi 3 anni fa a Ascona su cultura d'élite e cultura popolare nell'arco alpino fra 5 e 600, Adriano Prosperi, parlando delle fonti per lo studio della cultura popolare, si soffermava sull'utilità di utilizzare fonti nemiche, che danno meglio il senso della differenza tra cultura vincente e cultura combattuta. E fra esse considerava come esemplari le fonti lasciate dall'autorità ecclesiastiche tridentine sulla religione vissuta dal popolo presso cui vanno in visita. Dal contesto però il riferimento risulta non tanto alle visite pastorali, quanto proprio alle relazioni stese in forma epistolografica dai gesuiti a proposito delle loro missioni nelle zone periferiche dell'Italia del Cinquecento, che gli parevano più idonee allo scopo delle visite. Le relazioni delle missioni possiamo infatti osservare, sviluppando la metafora di Prosperi, hanno la caratteristica di esplicitare una memoria gloriosa che ricorda il nemico vinto e che quindi si giova ad essere evidenziata. Il nemico è costituito in questo caso dai cantastorie costretti al silenzio in quanto concorrenziali, dai ciarlatani scacciati, come accadde nel 1554 a Perugia, dove il padre Johannes Niger non patisce né saltimbanchi né ciarlatani né fattucchiare in modo alcuno, anzi in pubblico li guasta alle loro speciarie, botteghe e getta per terra loro e le loro tavole con grande ammirazione e soddisfazione del popolo. O come avvenne 2 anni dopo a Bibone in Sicilia, dove 3 di essi che vendevano orazioni superstiziose vennero imprigionati. Ma soprattutto il nemico vinto è costituito non tanto da persone quanto da pratiche, pratiche sconvenienti, radicate da tempo immemorabile, eppure vinte, almeno nella convinzione dei gesuiti, e perciò descritte in dettaglio a maggior gloria della compagnia, come le pratiche funebri accertate in Valmaggia o in Sicilia e minuziosamente descritte. Citerò qui il racconto delle pratiche funebri siciliane per dare un esempio non tanto delle pratiche stesse, quanto dell'organizzazione retorica del discorso, che intende sottolineare quanto quel dato comportamento sia distante dal retto modo di intendere la fede, quanto fosse radicato e come ciò nonostante i padri siano pervenuti ad eroderlo. Scrive Gian Tommaso Romano a Ignazio di Loyola il 21 maggio 1556. Oltre a di questo abbiamo visitato molte famiglie, le quali non facevano nessun fine di piangere i loro morti e abbiamo fatto che ponessino fine al loro dolore, benché difficilmente. Con quali pianti le donne siciliane piangano i loro morti non sarà fuor di proposito brevemente dichiararlo. morendo alcuno lo sogliono vestire con veste preziosissime, o sue o imprestateci dagli vicini, e porlo a sedere in una sedia molto alto, come il simulacro di Jupiter, intorno del quale molte donne cantano un certo canto sciocco e del tutto puerile, stendendo le mani verso il morto, empiono la casa di pianti, stirandosi i capelli e con le unghie sgrafignandosi la faccia. E questo non per un giorno, ma per 50, e molte per insino a 2 e 3 anni, e in questo tempo non odono mai la messa, né vanno agli sacramenti, e il resto del tempo della loro vita per qualsivoglia cosa non anderebbero a quella chiesa dove questo morto è sepolto, la qual consuetudine il viceré, zeloso dell'onor di Dio, volendola levare del tutto, con grandi bandi non ha potuto, benché in alcuni luoghi sia un poco diminuito. In realtà i gesuiti si facevano delle illusioni sull'efficacia del loro intervento. Infatti, verso il 1830, Salvatore Simone Marino ebbe a assistere a Palermo a una scena del tutto analoga a quella descritta dal romano quasi 300 anni prima. Il cadavere di un uomo sui 30 anni stava accomodato in una sedia a braccioli, vestito di tutto punto, con le mani conserte sul petto e il rosario fra le dita. Direi che la novità è questa, il rosario che ora è tra le mani del morto, prima non c'era. A destra e a sinistra di lui due donne accoccolate su un parchetto, con le chiome disciolte, le braccia pendenti, immobili, gli occhi fissi a terra. A un tratto, come spinte da una forza, entrambe levano in alto le mani e si percuotono il viso con un miserevole grido. Indi, palma a palma giungendo, intuonano alternativamente una mesta cantilena ritmica. È il pianto funebre siciliano di cui, come sapete, ci ha parlato De Martino, ma diciamo la somiglianza di questi due testi, De Martino cita il secondo, il primo non lo conosceva, è a mio parere impressionante e ci dà anche un'idea della capacità di gesuiti di osservare veramente con occhio antropologico, pur biasimando la descrizione indubbiamente accuratissima. Comunque i gesuiti, il loro nemico, credevano di averlo vinto. Le visite, al contrario, sono costrette a mettere in evidenza, quando capita, il nemico interno ancora vigoroso. I pastori insufficienti, i fedeli inerti o deviati. È naturale, quindi, che esse sorvolino sui particolari o comunque si preoccupino soltanto di illustrare lo sforzo conoscitivo e direttivo del vescovo. Io avrei altre due esemplificazioni, ma mi fermo qui perché ci possiamo fermare. Grazie. Grazie. No, 32 minuti, sei stata perfettissima. Appunto. Più di così. Ma se avessi